felice cielo mio, ma tu non sai qual sia, ma tu non sai qual sia, mia giusta gelosia, no dir di mo. Oh,